grazie. Allora do il benvenuto, buonasera a tutte le gentili signore e signori, vedo che siete numerosi, sono molto contenta e sono particolarmente contenta questa sera di avere qui con noi due ospiti graditissimi, l'autore Andrea Vitali. Grazie. E accompagnato da Alessandra Tortosa, che è una regista, programmista regista della RAI di Bolzano, la sentite spesso anche alle trasmissioni radiofoniche di Post-it, e Andrea Vitali lo conoscete perché è un autore famosissimo, medico di base a Bellano, sul lago di Como, ma che da anni è un autore stimatissimo e apprezzatissimo dal pubblico. Qui c'è un piccolo saggio di quella che è la sua produzione, vi dico che abbiamo faticato a trattenerli perché sono sempre in prestito. Abbiamo dovuto vietare tra virgolette il prestito, lo so che è politicamente molto scorretto, però mi assumo la responsabilità, per qualche giorno l'abbiamo bloccati. Ecco, siamo molto contenti, questa serata è realizzata in collaborazione con l'azienda di soggiorno di Bolzano all'interno di una rassegna speciale che è così attiva da qualche anno. C'è anche qui con noi in sala Dottor Vigna e la collega Martina Spinel dell'azienda di soggiorno, che collaborano e hanno ideato questa rassegna che accompagna il mercatino di Natale, però con delle proposte, con degli incontri culturali. E questo è uno di queste serate che è stata voluta qui presso il centro Trevi, dove ha sede anche la biblioteca provinciale da oltre un anno. Sempre all'interno di questa rassegna un Natale di libri, avremo un nuovo appuntamento lunedì 10 dicembre, cioè tra pochi giorni, in questa sala. Sarà la volta della presentazione della raccolta di poesie Sincope di Roberto Sapunt, che verrà accompagnata da Marco Forni in collaborazione anche con l'Istituto Culturale di Curato di della Val Gardena. Altri appuntamenti ne abbiamo ancora in serbo per voi fino al 20 dicembre, abbiamo le cartoline, chi volesse essere informato e tenersi in contatto con la biblioteca ci può venire a trovare, siamo al piano terra di questo edificio con l'entrata in via Marconi, oppure può anche iscriversi online e ricevere quindi costantemente le informazioni sui nostri appuntamenti ed iniziative. Io vi lascio subito la parola perché il pubblico è interessato a sentire le vostre voci. Vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Un benvenuto anche da parte mia, si sente? Benissimo, quindi un grazie ad Andrea Vitali, grazie a voi della vostra presenza. Come ha già anticipato Valeria, Andrea Vitali, scrittore, la sala piena penso che lo dimostri, quindi una grande popolarità. Probabilmente non ha bisogno di presentazioni, però se ci fosse ancora qualcuno che non lo conosce, medico di base fino a pochi anni fa, poi a un certo punto la svolta, lascia la professione medica e si dedica a tempo pieno alla scrittura, scrittura che comunque l'aveva accompagnato un po' per tutta la vita, la sua grande passione, e che adesso ovviamente riesce a coltivare con maggiore impegno, maggiore trasporto. Dunque il libro appunto, l'ultimo libro, per chi non l'avesse ancora visto, gli ultimi passi del sindacone, questa copertina dovrebbe raffigurare il sindacone, e in effetti dà già un'anticipazione di quello che poi andremo a scoprire. Due parole solo velocissime, poi magari leggeremo qualcosa proprio anche dal libro, ma le storie di Vitali sono molto, molto visive, molto dirette, con pochi aggettivi, poche frasi, ci catapulta immediatamente nel luogo. Il luogo di tutte le sue storie è Bellano, un paese sulle rive del lago di Como, un paese di poche migliaia di abitanti, Andrea. 3.000 abitanti. In questo paese di 3.000 abitanti ne succedono d'ogni. Quindi non è vero. Puntualizziamo. No, non è vero. Siamo un paese abbastanza normale. Cioè, il fatto è questo, che io, essendo uno scadentissimo viaggiatore, non conosco altro luogo se non quello. Io sono nato lì un po' di anni fa e da lì praticamente non mi sono mai più mosso. Quindi, poiché ritengo che questo tipo di narrativa, una narrativa di intrattenimento, tragga molto vantaggio dalla presenza di una geografia solida, e ribadisco, l'unica geografia solida è quella, diciamo, di Bellano, del mio paese, ecco che nel corso degli anni Bellano è diventato il teatro di tutte le mie storie. Questo però non vuol dire che tutte le storie, se no sarebbe un paese di matti. A questo punto il governatore della Lombardia ci avrebbe già chiuso all'interno di un muro di cemento armato altissimo affinché nessuno fugga da lì e nessuno ci entri per contenerci. Però, come dire, è diventato un teatro, il teatro della mia vita quotidiana e il teatro della mia vita di fantasia, diciamo, dell'immaginario. Funziona bene, finché dura non vedo perché devo andare a cambiare, anche perché poi dovrei cambiare paese, ambientare in altrove, cosa che non si fa. Da dove trai l'ispirazione di tutte queste storie, di questi intrighi anche, perché non sono dei gialli, però c'è sempre un mistero, in ogni volume c'è un mistero che poi man mano si dipana, poi cambia, assume altri contorni. Ma dalle chiacchiere, generalmente io ho cominciato proprio ascoltando le chiacchiere. Allora, appartengo a una generazione siffatta, cioè generazione per la quale i bambini dovevano ascoltare e tacere. Questo era così, tutto sommato. Vabbè, quindi, visto che c'era data la libertà di ascoltare, ascoltavo. Tant'è che le prime due storie, Il procuratore e Il meccanico Nandù, escono proprio, diciamo, da un'aneddotica tipicamente familiare, diciamo, di una famiglia particolarmente numerosa, allargata. Ascoltando a tavola, diciamo, queste storie, i racconti di guerra di mio padre, i racconti di lavoro di una mia zia che lavorava in una filanda, e sono nati Il procuratore e Il meccanico Nandù. Ora, una volta intuito che quel tipo di atteggiamento poteva fruttare nuove storie, non ho mai più smesso di ascoltare. E poi ho avuto questa grande fortuna di cui si parlava poco fa bevendo un caffè, quella di fare per 25 anni il medico di base, e farlo soprattutto in un periodo in cui il rapporto era veramente un rapporto basato sulla chiacchiera, sull'ascolto, perché non c'era tanta tecnologia da sfruttare, quindi si chiacchierava tanto, e tutti noi sappiamo che quando uno chiacchiera insomma, si parla del mal di stomaco, del mal di ginocchio, della lunga incarnita, eccetera, però racconta quando ha cominciato a sentire quel dolore, magari era una settimana prima mentre stava mangiando con questo, con quello, in quel posto, e là, ecco, e quindi fa tutto, ti dà già una serie di informazioni che, se non servono magari alla diagnosi, servono però per raccontare un episodio. Io ricordo, posso? Siamo no, per questo. Sì, no, ricordo un mio amico assistito, ma è amico, che venne da me perché gli faceva male il ginocchio. Allora, per andare a dirmi che gli faceva male il ginocchio, mi disse che si era alzato verso le 2 del mattino perché gli scappava la pipì, e che per non svegliare la moglie, che altrimenti, mi disse, naturalmente sarebbe poi riaddormentata con difficoltà, quindi poi sarebbe stata un po' incazzata, rognosa, eccetera, non accese la luce, andò a dormire, e tornandosi, perché le mogli sono così ogni tanto, tornando a luce spenta, andò a sbattere il ginocchio contro un tavolinetto, no? E quindi cosa che fece? Lui aveva sempre odiato, magari, perché lo poi cominciò a odiarlo subito dopo, perché allora, anziché tornare a letto, andò in cucina, ha preso la borsa di ghiaccio dal frigo, stese la gamba, stette lì e mi disse: sarà state le 2:15 cioè del mattino, sono lì, sento una macchina che arriva con una velocità incredibile, ecco, quindi già che era lì apre la finestra, guarda in piazza, vede sta macchina che arriva, si ferma, scende qualcuno, non seppe dirmi se uno o una, perché era buio, che vide di corsa scappare, fuggire, nascondersi, già lo incontrava, poi la macchina riparte con una sgommata. Io lo ascoltavo veramente bevendo le sue parole, e finì: adesso dammi qualcosa per il mal di ginocchio. E io: vabbè, se io ti do tutto quello che vuoi, voltarete, ti do una volta in testa, ma tu gli dissi: ti rendi conto che mi hai dato gli elementi per il primo capitolo di una storia? Ma veramente, una storia, come dire, fatte le debite differenze, ma quante storie di Simenon cominciano così, con una roba che sembra niente, poi pian piano, con un effetto domino, si entra proprio nella trama della storia. E quella fortuna, la fortuna, diciamo, di stare a contatto per un quarto di secolo con tanta gente, mi ha naturalmente offerto possibilità di storie, tipi umani, quanti ne ho visti, beh, non tanti, ma quanto basta, cubi, come dicevano i farmacisti. Allora, questa non era preparata. No, non mi ha preparato niente. Ma anche qui c'è un male al ginocchio e si parla di mistero. Ho detto che c'è sempre un mistero, c'è sempre un velo un po' così quasi nebbioloso, insomma, da molto idea del lago. Esatto, no? Quindi a un certo punto della storia di questo sindacone, che poi vedremo esattamente chi è sindacone proprio anche per la mole, succede un qualcosa. Nemmeno al secondo piano c'era uno straccio di luce, niente, neanche il lumino di una Madonna incastrato in una nicchia o buco nel muro. Quell'edificio era una sorta di labirinto, dava l'idea di essersi generato da sé, un pezzo dopo l'altro a casaccio, andando a occupare ogni spazio libero, senza il minimo rispetto di una logica, quale che fosse. Dal corridoio principale di ogni piano se ne staccavano altri, più brevi, a destra e a sinistra, che portavano ad altrettanti appartamenti, sempre che si potessero chiamare così due locali, al massimo tre, dove gli occupanti vivevano. E al tipo che sta salendo, appunto, gli avrebbe fatto comodo avere con sé una torcia, anche una scatola di fiammiferi per orientarsi, per aiutarsi a ricordare dove era andato a sbattere l'unica volta che era salito in quella casa, ma non li aveva. Quindi inutile recriminare, no? Fermo all'imbocco del corridoio principale, calcolò che la volta precedente aveva fatto una decina di passi all'incirca e poi aveva svoltato a destra. Una mano appoggiata al muro, l'altra in tasca, il Gattei si avviò. Passi lenti, cauti. Quando la mano non trovò più l'appoggio del muro, si fermò. La porta di casa doveva aprirsi lungo quel corridoio. La seconda, se non ricordava male, la seconda delle tre o quattro. Comunque, meglio muoversi. Fece per riprendere la marcia, ma il Gattei aggrottò la fronte in ascolto. Il vento, certo, continuava a soffiare, scuffie potenti che spadroneggiavano nello spazio aperto del lago, e poi si sfilacciavano in gemiti e fischi. Ma quelli che aveva appena sentito erano versi che con il vento non avevano niente a che fare. «Topi! Porca puttana, topi!» mormorò il Gattei. Scrutò nel buio con un ribrezzo cui la fantasia, alimentata dal fatto che non vedeva un accidente, aggiunse immagini raccapriccianti: code, dentini, zampette. D'istinto batté il piede sul pavimento allo scopo di farli scappare, ottenendo di richiamare il dolore al ginocchio che aveva infortunato poco prima salendo le scale. Ecco, quindi rientra. E rientra anche questo mistero che, come ho detto prima, si capisce man mano, e soprattutto dentro una storia ci sono altre storie principali. A un certo punto Andrea sembra che lasci la strada principale per camminarsi su di un altro vicolo, che poi, come il labirinto di questo edificio, se ne apre un altro e ci si addentra man mano, però senza lasciare quella principale. E quindi tu hai appunto detto la tua professione di medico ti ha aiutato tantissimo. Ah beh, assolutamente, io in questa casa mi ci sono perso davvero. Esiste la casa, esiste. Io quando facevo il medico, obbedendo a una chiamata notturna, mi persi in questo caseggiato. Mi sembrava, se qualcuno ha mai letto la trilogia di Gormenghast, ecco, mi sembrava proprio questo castello in cui di volta in volta venivano aggiunti pezzi, stanze, locali, che poi dopo venivano abbandonati, dentro i quali uno poteva perdersi. Infatti, allora a me non piace raccontare un personaggio senza presentarlo, cioè mi piace molto che tutti i personaggi, che siano principali o meno, che intervengono nella storia, si giustifichino. giustifichino, cioè giustifichino la loro presenza nella storia, il perché sono lì, perché fanno quella determinata cosa o dicono quell'altra e quell'altra cosa. Per fare così è naturale che debba essere introdotta un po' dalla loro biografia. Così sembra, diciamo, di abbandonare il filo conduttore della storia, ma è solamente, diciamo, una piccola parentesi, un intermezzo chiuso tra due parentesi, dopo il quale il personaggio ben giustificato rende conto, dà contezza del fatto che lui è presente in quella storia, il perché e il per come. E, certo, per quanto riguarda la domanda che mi sono dimenticato, il medico di base, tra l'altro, non specialista, ma medico di base. Quindi empatia. Sì, esattamente. Ecco, indubbiamente il contatto, diciamo, con la gente, con le persone, con quella piccola fetta di umanità che mi competeva, diciamo, per dovere, diciamo, professionale, mi ha svezzato al rapporto interpersonale, mi ha arricchito sotto molti punti di vista, sottolineo molti punti di vista, e ha arricchito ovviamente anche il mio archivio di storie. Allora, non sto qui, tengo a sottolineare una cosa: quando facevo quel lavoro non è che andassi in ambulatorio, cioè non avevo niente da scrivere, dico ciao, vado in ambulatorio a vedere se capita qualcosa di divertente. Non ho mai avuto, ho sempre cercato di rivolgerlo al massimo delle mie possibilità, con la massima serietà. Vero è che quando capitavano degli intermezzi, dei siparietti divertenti, non mi sono mai negato al divertimento, e a un certo punto ho cominciato anche a segnarveli su un canepino che tenevo nascosto per paura. È così che, come dire, ho alimentato l'archivio di battute, di aneddoti, di personaggi che poi, modificati al mio uso e consumo, sono diventati storie, e sono diventati, per fortuna, storie distaccandosi, diciamo, dalla realtà dentro la quale li avevo conosciuti, e questo è testimoniato dal fatto che per il momento non mi ha ancora minato nessuno. Pur vivendo in un paese di 3.000 persone, dove sarebbe facilissimo trovarmi tra il brusco e il brusco e i pini di legnate, per intanto non è ancora successo, che vuol dire che questo tipo di attenzione l'ho avuta, insomma, da 30 romanzi a questa parte. Allora, non ti ha menato nessuno, perché no, tu cambi tutti i nomi, ovviamente, quindi trai spunto dalle storie, perché, cioè, a Bellano esiste un Ersilio Maurito, no, Meritoria, Pericleta, Discardo, e andiamo avanti con Perlina, no, e ecco, dove li trovi i nomi, che sono uno, diciamo, più carino. Guarda, dell'altro. Dunque, io i nomi li trovo sul mio primo libro di lettura. Il sussidiario di prima. No, è Calendario dei Frati Indovino. E lo so che fa ridere, ma è la pura verità. Calendario dei Frati Indovino, chi non lo conosce perde qualcosa, e vale la pena che vada a conoscerlo. Dico che fu il mio primo libro di lettura perché io lo conobbi attorno ai 6-7 anni, insomma, all'età in cui uno comincia a compitare le prime parole, e lo conobbi naturalmente nella casa di campagna delle mie zie, sorelle di mio padre, che abitavano in una frazione di Bellano, negli anni in cui, voglio dire, avere la stalla, l'orto, la vigna era ancora un apporto all'economia domestica, ed erano gli anni in cui io e qualcuno dei miei fratelli, magari io e un altro, andavamo spesso un paio di settimane da loro per liberare mia madre dal carico di 6 figli nati tutti uno dietro l'altro, in pratica. Quindi d'estate, 2 settimane dalle zie, imparare anche cos'è il lavoro, insomma, la fatica della terra e quelle cose lì. Poi io 6-7 anni, verso sera, quando arrivava il crepuscolo, mi veniva il magone, io volevo tornare alla mia casa, alla mia mamma, al mio papà, tutte quelle storie lì, e non potevo, diciamo, tornare a casa. Allora, per, come dire, sedare un po' questa malinconia, non facevo altro che mettermi davanti alla finestra di casa loro, che dava proprio sul lago, e su quel pezzettino di riva dove si vedeva un pezzettino di tetto di casa mia, mentre sulla parete di fianco c'era il classico calendario di Frati Indovino con sul puntaspilli, e io ogni tanto mi giravo e cominciavo a leggerlo, e leggendolo, e questo è uno dei grandi pregi della lettura, mi dimenticavo un po' quelle ansie, ma soprattutto ero incuriosito dalla varietà di informazioni che il calendario dava e dà tuttora, e i nomi mi impressionarono sin da allora. Non tanto i nomi dei santi, perché quelli anche oggi sono nomi normali, ma i nomi dei beati. C'è i beati che sono almeno tre al giorno, per ogni giorno, e che tra l'altro vengono cambiati di anno in anno, cioè la bellezza di quel calendario è che si rinnovano, resta sempre uguale a se stesso. Ecco, i beati, che mi hanno sempre fatto un po' di tenerezza, perché sembrano, cioè, quelli che poveretti non hanno fatto un miracolone, quello che gli permette lo scatto in su, quindi non sono mai rimasti promossi. No, sono rimasti lì, ha fatto qualcosina di buono, ma non di grandioso, quindi sono rimasti, sono beati, o forse sono beati perché hanno dei nomi che obiettivamente sarebbe difficile dare ai propri figli. Ecco, usare quel calendario, quei nomi, mi diverte, e quindi modificandoli sempre al mio uso e consumo, cercando di avere il nome migliore per quel tipo di personaggio, è una delle attività che io faccio quotidianamente, perché calendario per l'indovino è ancora il calendario ufficiale di casa mia. Io la prima cosa che faccio la mattina è mettere sul caffè, guardare il televideo e dare un'occhiata al santo e ai beati del giorno, naturalmente. E questo per quanto riguarda i nomi, però sì. I cognomi, abbiamo dei fratelli Scaccola. Fratelli Scaccola che sono poveri fornai. Ecco, fornai. Lo è, la signora si è messa una mano ai capelli e ha capito perfettamente. No, un altro romanzo ritorna. Sì, sì, sì, ormai sono quei piccoli personaggi seriali che mi dispiace abbandonare. A parte il fatto che io non faccio praticamente morire quasi mai nessuno, insomma, perché, ma per una ragione pratica, perché se io faccio morire, che ne so, uno in biglietto signorina e poi lo tiro fuori nel prossimo romanzo, lei mi dice: vabbè, sei cretino, l'hai fatto morire 4 romanzi fa, non puoi farlo rinascere, non sei Conan Doyle che fa rinascere Sherlock Holmes. E quindi per quello non li faccio mai morire, perché so che possono comunque, cioè, i fratelli Scaccola chi li ammazza, mai più, cioè saranno diventati i fornai ufficiali di quel luogo immaginario. Ma non esistono, vero, a Bellano? Cioè, se andiamo a visitare Bellano, come arrivano per visitare Braie, se un passo dal cielo andiamo a comprare un po' di pane, siamo tranquilli. Cioè, io non garantisco, non garantisco neanche per me, quindi quasi per conto terzo. Dicevi, Andrea, i personaggi, che ti piace molto appunto caratterizzarli. Allora vediamo chi è questo sindacone. Il sindacone Fumagalli era un uomo pingue, obesità androide, il grasso ce l'aveva tutto attorno all'addome. Era alto poco più di 1,60 m e poggiava su gambe corte e sode, che terminavano in un paio di piedi piccoli e soprattutto diversi uno dall'altro. Il calzolaio Graziano Pelanda, che gli confezionava scarpe su misura, aveva confidato ad alcuni che il primo cittadino calzava una sorta di 37 arrangiato a destra, come certi giovincelli che si affacciano all'adolescenza, mentre il piede sinistro stava comodo comodo dentro un 36 scarso. Con un passo rapido e agile, appena caracollante, il Fumagalli compensava la brevità delle leve e la disparità dei piedi. Ne risultava un procedere svelto, scattante, come quello dei merli quando scavano qua e là nella terra alla ricerca di vermi. Sin da giovane Fumagalli aveva fatto pace col fisico di cui madre natura l'aveva dotato, conquistando col tempo un'armonia che gli consentiva di essere disinvolto, misurato, a volte addirittura elegante. E conscio di non avere un aspetto che attraesse, si era sempre dato uno stile di vita tranquillo, evitando contese dalle quali sarebbe uscito sconfitto senza scampo. Tra l'altro, a una complessione tutt'altro che guerriera, doveva il fatto di essere passato indenne attraverso il regime fascista, se si esclude l'omaggio di un nomignolo, Braga Passa, che si era perduto subito dopo la liberazione. Danni non ne aveva fatti, tutte le pompe mussoliniane gli erano passate accanto senza scalfirlo, anche perché non ne aveva mai avvertita la potenziale attrazione. A guerra finita era stato uno dei pochi a non aver avuto nemmeno bisogno di dichiarare la propria estraneità al regime appena crollato, tanto la cosa era nota a tutti. Ragioniere, Attilio Fumagalli non aveva fatto altro che occuparsi di numeri per tutta la vita. E questo è il nostro sindacone. Romanzo ambientato nel dopoguerra. Spesso i tuoi romanzi sono ambientati, diciamo, dagli anni 20-30, quindi tra le due guerre, e anni 60-70. Come mai? Una delle ragioni principali è che sono anni privi di tecnologia, cioè sono anni in cui, che ne so, in un posto piccolo come il mio, in quegli anni, 40-50, non c'era neanche un televisore, quindi sono anni che depongono a favore della narrazione. Poco fa si parlava di questa cosa, io facevo questo esempio: nelle mele di Kafka c'è questa storia, inizia con una telefonata che parte da Lucerna e arriva a Milano. Se l'avessi ambientato nel 2018 o quel che si vuole, in tre righe avrei risolto il problema, invece ho impiegato tre capitoli per raccontare questa telefonata. Perché? Perché è ambientato un romanzo negli anni 50, quindi questa telefonata parte a luna di notte da Lucerna, arriva dove? In Canonica, che è uno dei pochi posti che dispongono, diciamo, di telefono. C'è una sorta di gara, litigio tra Prevosto e Perpetuo per chi arriva prima a rispondere al telefono. Arriva prima la Perpetua, che non capisce una mazza, pensa a un errore, mette giù, poi il telefono torna a squillare, arriva allora il Prevosto che capisce, a quel punto capisce che la telefonata non è diretta a lui, perlomeno la notizia non riguarda lui, ma riguarda un suo parrocchiano che deve andare ad avvisare, quindi esce in una notte buia e tempestosa, insomma tutta una serie di cose che se ci fosse stato di mezzo un cellulare non sarebbe stato possibile raccontare. E quindi la mia predilezione, diciamo, per queste epoche è legata innanzitutto all'assenza di mezzi, diciamo, di comunicazione importanti come quelli di cui oggi disponiamo, che non fanno altro che alimentare la possibilità di chiacchierare, quindi, diciamo, di raccontarsi, anche perché io sono nato lì. Come tanti, diciamo, non tanti, però molti di noi che siamo qui presenti, sono nati all'interno di un'epoca in cui certe cose non esistevano, e all'interno di quell'epoca mi sono formato dal punto di vista, diciamo, dell'immaginario, né? Ben mi si intenda, non è una predica contro la tecnologia, Dio me ne scampi, però dal punto di vista dell'immaginario non riesco ad attraversare un determinato confine temporale che pongo più o meno alla metà degli anni 70, per un'altra ragione, anche perché da quell'epoca, da quel momento in avanti, inizia un declino della vita sociale, diciamo, del mio luogo di appartenenza, che rende, diciamo, quel luogo meno divertente e meno divertito rispetto a quello che era invece negli anni 60, 70 e anche 80, diciamo, se vogliamo. Tutta una serie di loro, quando io ho bisogno, racconto una storia, ho bisogno di divertirmi in prima persona, devo essere divertito di quello che racconto, altrimenti la cosa non avrebbe scopo. Per farmi questo scenario di divertimento, devo pensare a quegli anni, e questa è la base, è un terreno di coltura su cui, proprio come un batterio, pian piano nasce la storia. Bellano, poco più di 3.000 abitanti, ma non ti è mai venuta la voglia di andare via? Perché tanti da posti piccoli non vedono l'ora di scappare, di ampliare un po' i propri orizzonti, tu invece li hai trovati... Io ho questa immagine precisa, molto, come dire, molto poetica, che all'occasione, cioè, mi piace raccontare. Io ho capito di essere nato nel posto giusto all'età di 13 anni, quando in una sera, diciamo, di settembre... settembre, quando è bello, è mese di tramonti ineffabili, diciamo, sul lago, come altrove, ma io conosco quelli. Ecco, quella sera mia madre mi chiamò e mi portò fuori sul terrazzino a lago per dirmi guarda com'è bello. Ecco, quello è il momento fondante in cui io cominciai a capire quello che stavo vedendo. Fino ad allora probabilmente vedevo, guardavo, ma non capivo il paesaggio, il panorama, la bellezza di quello che mi stava intorno. E ecco, da quel momento in avanti cominciai a capire anche la bellezza di essere lì, e non ho mai avuto la tentazione, diciamo, di abbandonare quel luogo. Non mi ha mai... capisco le bellezze che mi vedo intorno, naturalmente, ma la necessità è quella di, oltre al calendario, infatti indovina, di vedere il lago la mattina. Qual è la dimensione visiva allora di Bellano? La scopriamo attraverso i libri, perché con pochi aggettivi efficaci sembra veramente di essere lì e di vedere tutto. Ma la dimensione sonora del lago? Noi non lo conosciamo il lago. È estremamente variabile, perché allora bisogna innanzitutto distruggere questa leggenda che il lago porti, esiste, non lo so, ma tanti sono convinti che sia depressivo, deprimente, che viene alla depressione. Non è, ma alcuni sono convinti fortemente di questa cosa. Venendo in treno oggi, chiacchierando tra Verona e Bolzano con una signora che mi raccontava come non sopportasse più la vita di Milano, invivibile, caotica, eccetera, ambiva a cambiare casa, cambiare ambiente, e io gli dico, io venga sul lago di Como, ma no, il lago no, triste. Come triste? Triste dove? È un luogo comune. Io ricordo, poi mi allargo, ma arriverò a rispondere, molti anni fa, la mia amministrazione comunale indisse un concorso letterario, piccino naturalmente, alla memoria di un nostro cittadino che scriveva poesie, e io venni cooptato nella giuria e mi assunsi il compito di leggere i racconti. Ora, uno dei limiti, dei paletti di questo concorso era quello che il racconto andava ambientato sul lago. Il 90% delle storie che lessi erano storie di cornuti che venivano sul lago, ma veramente di cornuti che venivano, di depressi che venivano sul lago per portare alla fine fatale la loro depressione, quindi suicidarsi sul lago, oppure, mi spiace dirlo, ma erano così, malati terminali che venivano a morire sul lago. Io dico, cazzo, ma perché uno che muore a casa sua, che muore nel suo letto, c'è di più bello, insomma, tra virgolette, morire nel proprio letto? Eppure c'era questa idea. Invece no, perché il lago è un ambiente, è un micro mondo sicuramente, ma come ciascun luogo ha le sue caratteristiche, le sue virtù e naturalmente anche i suoi difetti. Dal punto di vista sonoro, il lago interpreta, diciamo, un'orchestra, perché è silenzioso del lago lo si avverte quando non c'è vento, quando c'è un po' di foschia, quando sta per piovere, quando sta per nevicare, ma è un concerto di rumori quando soffia il föhn, ad esempio, quando i nostri vicini svizzeri ce lo mandano giù, ecco, e soffia magari per 6-7 giorni di fila, o d'inverno quando arrivano quei ventacci freddi, eccetera, allora sì che si avverte proprio la musica dell'abitare sul lago, oppure quando piove. Una delle esperienze sonore più intime è quella proprio, diciamo, di ascoltare l'acqua, la pioggia che cade sulla superficie del lago. Bisogna naturalmente avere un po' di silenzio intorno, ma sono tutte esperienze che, come dire, che riempiono l'animo, che ti fanno dire, come ho detto prima, sono contento di essere qua, di star qui. E la dimensione olfattiva invece del lago? E questa è difficilissima invece. Allora, esiste, il profumo di lago esiste. Nessuno credo è mai riuscito a definirlo e nessuno credo mai lo definirà. Ma non è un profumo che si sente tutti i giorni, anzi è un profumo che esala dal lago di tanto in tanto e bisogna avere la fortuna di essere lì. Quando lo senti capisci che è quello, non lo puoi definire, io non... ho sentito un sacco di volte, quando lo sento mi fermo proprio per capire, per inalarlo, per non dimenticarlo, per ricordarmi che esiste, ma di riuscire a definirlo è una cosa impossibile. Secondo me c'è, e questa è un'idea balzana naturalmente, non c'è solamente una componente materiale, che ne so, di acqua, di pesce, di alga, di muschio, di sarma, c'è anche, che ne so, il cielo, le stelle, che ne so, le luci delle macchine quando è notte soprattutto, c'è una componente veramente surreale che combina quel profumo che però si sente di tanto in tanto, non sempre assolutamente. Ma cambia? No, è sempre no. Qualunque stagione, quando senti quell'odore, io lo chiamo profumo perché per me tale è quello, no, e non cambia assolutamente estate, inverno, primavera, autunno. Io vorrei sapere come ti sei avvicinato alla lettura, alla scrittura. Hai detto che è sempre stata la tua passione, l'abbiamo anche letto, insomma, in tutte le interviste lo dici, scrivevi anche durante l'esercizio della tua professione, sì, medica. Sempre. Ma come ti sei avvicinato a scrivere? È stato traumatico, posso dirlo. Allora, io a 15 anni, più o meno 14, se non ricordo più, vengo fulminato dal primo amore della mia vita. Capita a tutti, non è che sia una cosa così. Cioè, una compagna di classe, bionda, che mi affascinò, però non avendo particolari mezzi, anche economici, a disposizione per corteggiarla, poi essendo imbranato con un sasso naturalmente, l'unica cosa che riuscii a fare fu quella di tempestarla di letterine d'amore, quindi fu un esperimento letterario, no? Cioè, le lettere d'amore hanno una loro dignità nel mondo, diciamo, della letteratura. Ora, successe che a distanza di circa 20 giorni, 25, quando io cominciai a covare il sospetto che anche lei avesse un'ala di simpatia nei miei confronti, mi mollò per uno che aveva il motorino. Vi giuro, fu una delusione, e avrebbe dovuto enorme, anche perché l'ho detto, cioè questa cosa capita in un'epoca in cui in un paese uno che aveva il motorino era veramente uno al di là, cioè fuori veramente, era davanti a tutti, era un passo o due avanti a tutti gli altri. Quindi io avrei dovuto capire i grandi frutti della letteratura, no? Da questa roba, se scrivere mi dà questi risultati, cambia mestiere. E invece, no, crapone, insistei, cosa feci? Scrissi delle poesie d'amore, ma per elaborare il lutto di questa dismissione, una poesia terribile, perché c'è a 15 anni una fregatura del genere, uno vede buio, la vita è finita, il suicidio, le porte. Facellato di fronte. Comodissimo, perché mi bastava andare sul terrazzo di casa, scavalcare la ringhiera e buttarmi nelle rocce sotto e avere fatto, eccetera. Invece no, cercai di elaborare il lutto con queste poesie d'amore. Però a distanza, secondo me, cioè, tutto ritorna poi nella vita, ci sono i cicli, tutto ritorna. A distanza di tanti anni, sono contento di quello che è successo, per la semplice ragione che questa qui, che è ancora in vita, è diventata grassa come un... veramente, terribilmente irriconoscibile rispetto alla sinfide che era un tempo. E adesso, che dico, c'è la smazza che l'ho sposata, cioè, sono contento che non l'ho sposata io, ecco, perché è sformata, è veramente imbruttita da far paura, quindi tutto sommato va bene a tenere conto. Tu hai raccontato che già quando facevi il medico scrivevi gli aneddoti su un taccuino, eccetera. Sì. Come scrivi in realtà a penna, al computer, appiccichi i bigliettini quando ti viene un'idea? Cioè, com'è proprio la tua modalità? Io generalmente scrivo generalmente scrivo sempre a mano e a matita prevalentemente, perché ho un amore per questo oggetto, mi piace la matita, le colleziono, ne compro un sacco. E il computer esiste come succedaneo della macchina per scrivere, cioè sicuramente non posso consegnare i miei scritti all'editore, no, perché a volte non capisco nemmeno io quello che ho scritto il giorno prima, quindi figuriamoci, quindi li ribatto poi dopo a computer, ed è un lavoro comunque che frutta, perché non è una semplice ribattitura, è già una rilettura e una riscrittura di quello che hai scritto il giorno prima o due giorni prima. Però ecco, non mi faccio assolutamente scalette, non mi piace l'idea di sapere domani, di sapere già oggi quello che andrò a scrivere domani. I personaggi crescono anche in corso d'opera. Nel Singapore c'è un personaggio che io pensavo di dover confinare nel primo capitolo, era Pericle Pellegrini, l'assessore alla cultura con delega, diciamo, per l'assistenza ai poveri. Ecco, siccome il primo capitolo è una presentazione della giunta amministrativa, non potevo presentarla a Monca, e quindi prima dell'assessore alla cultura, quindi ci ho messo dentro sta Pericleta, con l'intenzione di dire, almeno occupa la poltrona e nessuno potrà dire mi manca un assessore. E invece questa assessora è stata uno dei motivi per cui il sindacato è cresciuto lentamente, perché a un certo punto, rileggendo la prima stesura, io capivo che mancava, qualcosa, mancava lei, mancava, diciamo, la sua presenza nel resto, diciamo, della storia. Per cui ho dovuto aspettare che io maturassi con lei per raccontare, altrimenti la storia veramente sarebbe diventata zoppa, tant'è che nella fase finale della storia la Pericle recita una parte fondamentale senza la quale la storia non si sarebbe conclusa. È una delle tante ragioni per cui non mi faccio grossi programmi, mi basta avere, diciamo, un'idea anche vaga della trama, un'idea, diciamo, della fine, cioè dell'obiettivo da raggiungere col racconto, e quando ho un'idea non precisa, non devo essere sincero, così, allora mi piace partire alla scoperta di quello che giorno dopo giorno salta fuori. Hai mai riscritto completamente un romanzo, cioè che poi non ti convinceva e quindi... Sì, devo dire che questo ad esempio è riscritto, perché questa è la prima stesura di questo risale a 15 anni fa, Occhio e Croce. Poi è rimasto nel cassetto parecchi anni per varie ragioni, la perifita è una di quelle, ma non solo, e quindi di tanto in tanto lo tiravo fuori, me lo rileggevo e non mi convinceva. Quando l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ho capito che era giunta, diciamo, la sua ora, l'ho ripreso dall'inizio proprio. Ho tenuto da parte quello che avevo già scritto, ma come traccia da seguire però è praticamente stato completamente riscritto, anche sulla scorta di vicende di alcuni personaggi che all'inizio non c'erano, che all'origine non c'erano, non solo la Perichetta, ma anche l'Ersilio De Greti, l'assessore, diciamo, al turismo, e altre cosine che andavano meglio definite e che si sono definite con la pazienza, aspettando il tempo giusto per raccontarle. Vediamo allora chi sono questi personaggi. Oltre al sindacone sono i 5 assessori. Allora iniziamo dalla Pericleta. La maestra Pericleta Beregini si occupava di cultura, poca come le finanze che le mettevano a disposizione. Sognava una biblioteca stabile e ricca di titoli che avrebbero educato la gioventù al bello e al buono, ma ogni sua proposta veniva rimandata alla giunta successiva. Patrocinava e sovrintendeva l'annuale spettacolo della Filodrammatica, con diritto di veto sulla commedia proposta se le pareva immorale, o cassando dal testo ogni parola che fosse anche solo lontanamente volgare. Infine si occupava di assistenza ai poveri. In sostanza, le era stato affidato tutto ciò che agli altri dava noia. Gli altri assessori, cioè il pizzicagnolo Amelio Stoppani, anche un ruolo importante. In seno alla giunta si occupava di problemi inerenti alla viabilità, altisonante carica che in pratica si esauriva nell'attendere al decoro di strade e contrade e alla manutenzione delle mulattiere. Ersilio Allegretti, con delega agli affari del turismo, fu il secondo a ricevere il biglietto, perché questi 5 assessori ricevono la convocazione del sindaco, del sindacone, convocazione alla giunta per fare gli auguri di Natale proprio la vigilia di Natale, alle ore 19. Ecco, qua. Poi c'è il geometra Enea Levore che appunto attende alle questioni edilizie, e poi c'è il vice sindaco Veniero Gattei, quello che appunto saliva le scale infortunato al ginocchio, assessore al bilancio con delega alla firma. Tra i componenti della giunta era il più giovane, senza dubbio il cervello più agile e fantasioso della compagnia. Ragioniere malgré sua, stava godendo la licenza matrimoniale. Dopo 7 giorni trascorsi a Venezia, tra le brume soporose di là e l'odor di fognina, aveva appena fatto ritorno a Bellano, pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. Quindi questi sono i personaggi. E poi però aspetta, perché l'Ersilio Allegretti, bisogna dire, infatti l'ho liquidato troppo velocemente. Ersilio Allegretti con delega agli affari del turismo. Il biglietto glielo portò la giovane serva Sirica o Sirica, no, io direi Sirica, però Sirica, anche Sirica, in camera da letto insieme con la colazione e le notizie sul tempo, freddo ma sereno. L'Allegretti stava bene del suo, amministrava case, appartamenti di proprietà non solo in paese, eredità di famiglia. Si atteggiava a uomo di mondo, aveva 45 anni e da 15 non si alzava mai prima delle 9 del mattino. Amava girare nudo per casa e talvolta si esibiva in costume adamitico dal terrazzino che dava sulla strada statale. È un soggetto che esiste davvero. Adesso non lo fa più perché sono passati gli anni che per lui. Dopo che è finito nel libro, no? No, perché è passato qualche anno e andare fuori adesso a dicembre nudo sul terrazzino di casa, ma 20 anni fa io non lo ricordo. Dicevi che comunque ci sono anche altri personaggi in questo libro che sono veri. In parte sì, ci sono queste due gemelle che discendono, diciamo, da una figura realmente esistita ed esistente, che io naturalmente ho scisso in due per evitare, tanto si riconosce, ma voglio dire per evitare un riconoscimento troppo franco, troppo preciso. E sono queste due gemelle che vennero battezzate gemelle nere perché nel novembre del 1944 frequentarono degli allievi ufficiali che avevano aderito alla Repubblica Sociale. Questo è un fatto realmente accaduto, cioè un fatto che ha ritardato, insieme con un'altra ragione, proprio il sindaco, perché essendo un fatto vero, non è abbastanza, che fa riferimento, diciamo, a un periodo della storia, dell'italica storia, un periodo che può ancora evocare odi, rancori, litigi e cose di questo genere, come dire, mi scocciava un po' metterlo in campo. Il fatto vero è questo battaglione di allievi ufficiali del Modena, che avevano aderito alla Repubblica Sociale, che ritirandosi nel 1944 giungono a Bellano, ci stanno 9 mesi, vanno a occupare i locali del cotonificio, che diventano la loro caserma, e i giardini a lago, che diventano il loro campo di addestramento. Si fermano 9 mesi a Bellano, e nell'arco di questi 9 mesi, 4-5 allora signorine bellanesi, ne frequentano alcuni, e sono tutti giovani, 18, 19, 20 anni, io ho anche le foto perché poi è una storia documentata. Alcuni sicuramente sono belli, altri simpatici, alcuni belli e simpatici, ma tutti hanno la divisa, e quindi la divisa naturalmente, quale che sia, attira, ha un suo fascino. Insomma, sono 4-5 ragazze bellanesi che cadono, diciamo, nella rete di questo fascino, li frequentano e a liberazione avvenuta pagano il dazio di questa compromissione presunta o tale, eccetera. Nonostante si fermino 9 mesi, che è una cifra quasi simbolica, esattamente non nascono a Bellano figli di NN, quindi questo significa che le frequentazioni si sono limitate, ecco. Ma la cosa bella è che a un certo punto io, nell'arco di quei 25 anni in cui faccio anche il medico di base, tra i miei assistiti ho una di queste antiche signorine, ormai diventate signore, e con la confidenza che si instaura a un certo punto mi permetto di addentrarmi nelle chiacchiere, diciamo, di quel periodo. Vado a capire, sì, che lei con molta tranquillità mi racconta quello che è successo, mi racconta delle passeggiate sul lago, le chiacchiere, dei pacetti, poi si possono anche essere infrattate nei giardini a lago, ma cioè, quello che succede è sotto gli occhi di tutti. La cosa che mi ha convinto a raccontare questo fatto, pur mutandolo, diciamo, per esigenze narrative, è stato che 6 anni fa, o 5 o 6 anni fa, questa signorina, ormai diventata signora, con qualche anno sulle spalle, ha sposato l'antico allievo ufficiale che conobbe nel 1944, dopo che i due ebbero delle vite diverse, vite che si svilupparono altrove, lui ingegnere, diciamo, sposato con figli, lei casalinga sposata, diciamo, con figli, grazie a una telefonata di lui, ti ricordi di me? Sì, mi ricordo di te, e questi, una piccola marcia di avvicinamento che ha ricongiunto questi due antichi innamorati, convincendoli a sposarsi in chiesa, fatto mediatico, perché, diciamo, il paesello venne invaso da una troupe di Canale 5, se non ricordo male, che filmò il matrimonio, diciamo, in chiesa, e naturalmente fece diventare una notizia. No, una notizia con la N maiuscola, secondo me, perché mi piacque vedere, diciamo, in questo cerchio che si chiudeva, come dire, il primato del sentimento su un certo tipo di odio, di divisioni, per qualunque ragione. Andrea, tu hai ricevuto parecchi premi. Io ne ho persi anche tanti. Premio Piero Chiara, premio Grintana e Cavour, Bancarelli, eccetera. Qual è stato il premio più bello? O qual è il premio più bello? Ma devo dire che tutto sommato il più bello resta il premio Chiara, forse perché il primo, forse perché non ci credeva nessuno, forse perché partecipammo con una serie di racconti pubblicati da un editore minuscolo e c'era dall'altra parte, se non sbaglio, in finale con me c'era Einaudi e c'era E.O., per cui nessuno di noi sperava minimamente, era già una bella cosa essere arrivati in finale. Quando poi giunse la comunicazione che la giuria dei lettori, perché Chiara, diciamo, si affida alla una giuria dei lettori, aveva prediletto questi racconti su Marinetti rispetto agli altri due, fu una, veramente una bella soddisfazione. Capitava poi nel 1996, quando, diciamo, le mie sorti di raccontatore di storie erano ancora abbastanza precarie, insomma, cioè io ci credevo, però era di là da venire l'interesse di un editore un pochino più importante, per cui è quello che ricordo con maggior freschezza, con maggior simpatia, anche perché ero più giovane. Poi però devo dire che i premi mi piacciono, ma non è che ci faccia un gran conto, cioè è bello, sì, sono state belle esperienze, ma infatti il mio editore sa che gli ho detto basta, mi avete fatto partecipare a tutti i bei premi vinti, persi, eccetera, adesso però basta. Cioè, sono vetrine che ho vissuto, belle esperienze, ma non ritengo utile ripeterle. Io volevo sapere anche se ogni tanto ti stufi di essere scrittore, cioè è, si dice, il mestiere dello scrittore, è un vero e proprio mestiere, ci si alza la mattina, ci si siede, si inizia a scrivere, si scrive quando si ha l'ispirazione, ogni tanto c'è una demotivazione. Sì, no, demotivazione, ci sono dei momenti difficili sicuramente. Quando, come dire, ad esempio, io un'arma sulla quale faccio molto conto è quella dell'ironia, a volte si spunta un po', no? E ti accorgi che la cosa, che il racconto va avanti, però gli manca, diciamo, quell'ironia che ti diverte, perché la senti, diciamo, te la senti dentro, eccetera. Quindi sono quei momenti in cui è meglio lasciar perdere, è meglio ricaricare le pile leggendo. Ecco, la lettura è, come dire, il carburante fondamentale. Io non posso passare un giorno senza leggere. Cosa leggi in particolare? Ma cerco di essere onnivoro per quanto si possa, per quanto il tempo te lo possa permettere. Quindi da parecchi anni a questa parte sto rileggendo le cose del liceo, perché altrimenti me le dimentico. Ed è una cosa che mi dispiace, perché fui al liceo grazie a un insegnante di lettere classiche del liceo che io capii la bellezza, diciamo, della letteratura, cioè la grandezza, la modernità, che entrai in questo mondo vastissimo per non più, come lettore naturalmente. Poi mi appassionai alla scrittura, ma per non più uscirne, perché è talmente vasto questo mondo, diciamo, che ti ci perdi, ed è bello perdersi. E poi cerco di stare al passo un po' con il contemporaneo, però, cioè, è estremamente difficile stare. Poi a me piacciono molto gli scrittori che sono lontanissimi da me, dai miei mondi narrativi, dal mio tipo, diciamo, di scrittura, dal mio racconto, perché sono quegli scrittori che ti dimostrano la potenzialità della scrittura, ti dicono si può scrivere anche così, si può raccontare anche così, non è solo il tuo l'unico modo per raccontare, e sono gli scrittori che ti insegnano qualcosa di più. Poi dipende se riesci ad applicarti, ad imparare e a replicare, però perlomeno sono un bello stimolo morale a cercare di migliorarti. Cosa hai in mente adesso? Stai scrivendo qualcosa? Sì, adesso sto scrivendo. Quando arriva Natale, avete schiacciato la zampa al cane, no? Ah no, sembrava un cagnetto che fosse. Dalla fantasia a parte. Quando arriva Natale, io mi lascio, come dire, affascinare proprio dalla mitologia natalizia. Mi piace vedere gli alberi di Natale, c'è una città che è piena di alberi illuminati, e mi sento finalmente, mi sento tornare ancora più bambino di quello che sono. Quindi mi piace scrivere delle favolette ambientate a Natale. Quindi verso la metà del mese scorso, cominciando ad avvertire il profumo di Natale, cominciando a, come dire, a sentire il sapore del panettone che io adoro, ho cominciato a scrivere una favola che si intitola Il nonno Emperor, che è la storia, diciamo, di un bambino abituato a dormire con questo nonno che una bella mattina si vede e crede di essere Napoleone. E quindi viene ricoverato in una casa di cura dove vengono ricoverati solamente soggetti che pensano di essere diventati personaggi storici ormai defunti. E a un certo punto viene ricoverato anche Babbo Natale, cioè perché non può dimostrare di essere Babbo Natale esattamente, quindi una specie di sceriffa lo ricovera lì. E quindi c'è tutto questo ambiente, diciamo, di suonati che viaggiano all'interno di questo manicomio. Naturalmente la favola finisce bene, poiché il sottofondo morale era che parlare, diciamo, della malattia mentale. Naturalmente questo nonno guarirà quando l'imperatore morirà, che è ovviamente un giochetto equivoco, perché quando muore Napoleone dentro di lui torna a essere il nonno che è sempre stato. Malattia mentale che ti attira, probabilmente ne faccio anche un po' parte. No, mi attira perché questo la psichiatria è sempre stata, è stato l'amore, diciamo, dei miei anni universitari. Io infatti gli ultimi 2 anni li ho fatti in un reparto psichiatrico come allievo interno. Sì, la tesi di laurea l'ho completata al Paolo Pini, quando ancora Paolo Pini era, diciamo, l'istituto per i malati cronici, ed è una passione che mi è sempre rimasta, e ho sempre, come dire, prediletto questa fascia, diciamo, di persone, perché sono veramente tra i tanti ultimi, sono proprio gli ultimi della nostra sanità, anche oltre che della nostra società, forse spesso dimenticati, spesso non compresi, perché la malattia mentale non si vede, cioè non puoi misurarla con il termometro, non puoi vederla come il morbillo, non la vedi, quindi sembra non esistere, ma esiste, e mette veramente, diciamo, a disagio. Per cui quando mi sono dimesso dal sistema sanitario, comprendendo di avere del tempo libero, mi sono messo in contatto con una comunità psichiatrica che già conoscevo, di una valle bergamasca, e mi sono offerto come lavorante volontario per creare occasioni di porre a contatto i ragazzi ricoverati lì con la società civile, perché sono convinto di una cosa, che è la psichiatria che deve occuparsi della malattia mentale, ma è la società civile che deve occuparsi di dare a costoro i mezzi per sentirsi, diciamo, delle persone e non dei malati di mente e vita naturalmente. Quindi ecco, la favoletta ha questo sottofondo, naturalmente scherzoso, ovviamente, perché non mi sognerei mai di parlare seriamente, di scrivere seriamente, diciamo, di malattia mentale, ci sono ben altri soggetti deputati a farlo, ma così per il gusto proprio di raccontare qualcosa che abbia a che fare, diciamo, con un universo che spesso ci dimentichiamo che esiste. Grazie per queste belle parole, tra l'altro, che fanno pensare. Questo vuol dire che, appunto, che i tuoi romanzi comunque fanno sempre pensare, c'è sempre un sottofondo, proprio non sottofondo, sono proprio impregnati di umanità, e quindi questo lo dimostra. Chiederei se magari qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità. C'è il signore. Volevo chiedere perché i suoi romanzi La stazione dei carabinieri è sempre un punto importante. Perché è un punto importante, diciamo, nell'architettura non solo urbana ma morale, diciamo, del paese. A Belano c'è sempre stato un punto di riferimento. Allora, in questa commedia, che poi non è una commedia perché è la realtà, la canonica, il municipio, la farmacia, la caserma dei carabinieri, sono qui. Se non ci fosse la caserma dei carabinieri me la sarei inventata, perché altrimenti questo paesaggio sarebbe stato veramente, veramente zoppo. Poi io ho una particolare confidenza e simpatia nei confronti, diciamo, dei carabinieri, li conosco da quando sono piccolo, così, o quando piccolo. Ai tempi del liceo, per guadagnare qualche lira, lavoravo in un negozio di caccia e pesca e più di una volta, spesso e volentieri, venivo inviato con il modulo di denuncia acquisto fucile o cartucce, eccetera, alla caserma dei carabinieri, per cui ero io il galoppino, e da allora sono entrato in confidenza, diciamo, con i carabinieri, li conosco tuttora, diciamo, ci chiacchieriamo, ci passiamo, chiedo informazioni a loro quando ho qualche dubbio procedurale, eccetera. Per cui, e poi la ragione fondamentale è che non si può fare a meno di una caserma di carabinieri in storie siffatte, non solo nelle storie attualmente, anche nella realtà, però nelle storie ci vuole il conto. Grazie. Poi un'ultima cosa sui carabinieri. Il bello, diciamo, della caserma dei carabinieri è che sono una sorta di riassunto dell'Italia, perché ci passano veramente tutte le regionalità. Io racconto di questo appuntato siciliano, brigadiere sardo, il maresciallo, diciamo, calabrese, però c'è anche il bergamasco, c'è il piemontese. Cioè, veramente è bello perché sono un riassunto, diciamo, della nostra Italia. Grazie. Grazie a lei e soprattutto complimenti per aver aspettato neanche 3 secondi a fare la domanda. Perché se la offri. Già, perché di solito quando si dice adesso sono le domande sono un quarto d'ora di silenzio totale, invece è stato di una. È un record, me lo lasci dire. Signora? Allora, io volevo dire una cosa. Dica. Il libro Le tre minestre. Sì. Queste garanzie sono, cioè, è un modello autobiografico, sono realmente esistite? Come no? Sono loro che l'hanno autorizzato a diventare il ministro della salute? Abbastanza, allora, sono realmente esistite, si chiamavano realmente così, sono 3 donne che hanno, io e mio fratello abbiamo perso nostra madre molto presto, quindi sono 3 donne che hanno sostituito in un certo senso la figura materna, e l'hanno fatto in una maniera, diciamo, eccezionale, perché erano 3 zitelle tra l'altro, quindi... è abbastanza, poi io gli eventi raccontati li ho gonfiati un po' per renderli divertenti, eccetera, però ci sono dei passaggi di profonda verità in quella storia. Un'altra cosa volevo fare di complimenti, perché io sono originaria di Granada, che è un paese quella, a 20 km da Bellasso, lo so, e ci ritrovo tanto della tradizione del mio paese, a cominciare dalle ricette che ci sono lì. Io non ho mai capito cos'era la menace, adesso lo so, sono qualcosina, non l'ho capita. E soprattutto queste espressioni, che non sono dialettali, sono un po' da slang, sono quelle che usava mia mamma, cioè la donna di mamma fare, che si chiama pelata, per cui mi sembra che siamo a portare avanti queste tradizioni che sta scoprendo, almeno a Premana certe espressioni non si usano quasi più. Io le ho trovate nei suoi libri e dico, ma che bello. E perché io le ho imparate quando ero giovane, esattamente. Sa, quello è il volgare, per modo di dire, ma non volgare in senso cattivo, è esattamente la lingua del bar, la lingua del caffè, la lingua che si parla in piazza. Ma io ho quell'obiettivo lì, soprattutto, diciamo, nei dialoghi che mi piace raccontare, di usare la lingua che si usa, non di usare un vocabolario particolarmente sfizioso, ma la lingua così, quella che si in piazza, al bar, in ambulatorio, ovunque, quella che parliamo. Grazie, saluterò Premana domani. Ieri suona il modo di parlare di mia mamma. Senta, dica. A proposito del lago, sono d'accordissimo con lei che il lago ha una sonorità tutta particolare. Pensi un po' al coro del Bocca Chiusa di Ramadan Battle, ecco, volevo porre una serie di questioni. La prima, a me sembra, ho letto solo 4 libri dei suoi 65, quindi, a me sembra che sia molto vicino a un autore degli anni 50-60, Achille Campanile. Certo, Achille Campanile non è solo famoso per le tutt'altro. Dei racconti molto belli, dove proprio cerchi concentrici, no? Sviluppo una serie di... Allora la prima domanda, si sente vicino a questi autori? La seconda riflessione, lei è uno di pochissimi autori, se non l'unico in Italia, dove leggendo i suoi libri passa la depressione. Voglio essere più chiaro, è molto esilarante, ma non superficiale, intendiamoci, cioè non vorrei essere frainteso. Cioè io amo la lettura, anche in eccesso leggo, scusi la volgarità. No, beh, è uno dei posti più deputati alla lettura. Agatha Christie, del resto, Agatha Christie lì, quelli leggiati, no? Ecco, non conosco, almeno non mi viene in mente adesso, un autore, salvo Attilio Campanile, che ha questo filone esilarante, paradossale. E poi una terza riflessione, Bellano. Ma io ho l'impressione che Bellano sia ormai il punto di riferimento di tutte le cittadine e di tutti i paesi italiani che vivono per le contraddizioni, per le storie che pure accadono. Cioè voglio dire, qui siamo a Bolzano, ma se invece che di Bellano ci fosse stato l'Armes, probabilmente non è che cambiavano. E poi, ultima cosa e poi chiudo, le sue storie, come le può collegare oggi, come le collegherebbe oggi con la realtà, ma proprio attuale, dico, anche perché è ricorrente anche questo discorso dell'antifascismo, l'ha visto certamente in una maniera ironica. Parto da Achille Campanile, io l'ho letto praticamente tutto, uscì anni fa un economico Bompiani che raccoglieva tutto, e devo dire che al di là, diciamo, dei paradossi e dell'ironia, la cosa che mi colpì di più è che Campanile fu la malinconia che esce da certi scritti, una cosa che io non immaginavo, perché ero abituato a pensare all'Achille Campanile umorista eccetera, e invece mi sono trovato spiazzato e affascinato, diciamo, dalla capacità, diciamo, di portarti sì a un, non tanto alla malinconia, alla nostalgia proprio nel senso più alto del termine, a questo desiderio doloroso di ritornare a un tempo, a un luogo, a una persona, insomma, che è la cosa che più mi ha colpito alla lettura di Campanile. Per quanto riguarda la cosa che ha detto su Bellano, mi fa molto piacere, perché vuol dire che Bellano non è solo Bellano, è un luogo del mondo. Quindi una cosa, un sindacone a Bellano, va bene, è Bellano perché io sono nato lì, ma se era il paese che ha citato lei poteva andare bene lì, e mi fa molto piacere perché vuol dire che ho raggiunto uno scopo, che ho tolto i confini, che non è più un racconto confinato dentro quel luogo, ma è un racconto che può tranquillamente uscire da quei confini e arrivare ovunque. Sull'oggi mi mette in grande difficoltà perché io sull'oggi non riesco a ragionare dal punto di vista narrativo, non riesco a impiantare una trama narrativa utilizzando gli spunti che possono venire dalla realtà odierna, e non riuscirei veramente a organizzare nessun tipo di racconto a meno di sganciarmi totalmente dalla realtà, però non è sicuramente quello che lei intendeva. Per quanto riguarda sicuramente, diciamo, l'antifascismo e queste cose, io l'ho sempre presa sul versante ironico, perché per lo più tra l'altro impianto queste storie soprattutto in uno dei periodi più grotteschi, diciamo, del regime, che sono quello, diciamo, degli anni 30, dal 30 al 36, quando ormai il diritto Matteotti se lo sono dimenticato tutti, le leggi razziali, l'amicizia con i tedeschi è ancora di là da venire, c'è questo periodo direi fenomenale, che è un periodo da bar spettacolo, quello che va dagli anni 30, quello che culmina con il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma. Spero che poi dopo durerà 20 minuti e poi con si Achille Scarace segretario, con quello che vuole cambiare, vuole italianizzare le parole straniere, quindi cognac diventa cognac, film diventa filmo, quelle cose lì sono veramente di un grande umorista. Scusi, a proposito, proprio perché lei ha scritto un libro partendo dall'ultimo tango a Parigi. Ricordiamo un attimo il grande Bernardino. Sì. Mi scusi da te. No, ma guardi, l'ultimo tango a Parigi fu un evento al paesello. Ma veramente, veramente, perché io ricordo, no? Io ero abbastanza giovane quando arrivò l'ultimo tango, tra l'altro, come dire, annunciato da un manifesto, ma mesi prima, no? Perché. E poi c'erano questi giovanotti che non l'avevano visto assolutamente, ma menavano vanto di averlo visto. E l'unica roba che parlavano di questo film e continuavano a dire burro, burro, e poi facevano gesti con la mano per dire ma una roba, e non l'avevamo visto. Infatti poi quando andarono a vederlo nessuno arrivò alla fine, perché è un film, diciamo, che ha tutt'altro messaggio rispetto al burro e quelle robe lì, insomma. Ecco, non arrivavano fino alla fine a vederlo, perché pensavano di andare a vedere chissà cosa e non si resero conto che invece era tutt'altro. Ma era fenomenale sentirvi parlare, vedrete che roba. Pensavo di andare a vedere un film con Alvaro Vitali e di Feneghe, che invece. Poi c'era ancora qualcosa in ballo? Sì, no? No. Complimenti. Grazie. Tanto complimenti. E poi com'è che uno scrittore arriva a un proprio stile? Poi mi piace, posso dirle, tutto quello che scrive in modo, e mi piace tanto questo filo conduttore che c'è di capitolo in capitolo, che si riaggancia a quello precedente, anche se poi i tempi sono diversi, le storie sono storie diverse. Tutte diverse, questo che poi si intrecciano. Questo filo conduttore che riprende, mi piace tantissimo. Ma guardi, sullo stile, se c'è uno stile è frutto proprio dell'attività continua, dell'attività quotidiana, è frutto anche del confronto con chi ti legge prima che il libro esca. Cioè io mi confronto ad esempio con mia moglie, le tiro una testa così leggendo ad alta voce le cose che vado scrivendo, che è una cosa che a me frutta un sacco, perché la lettura ad alta voce mi ridà la tempistica, il ritmo, mi fa capire quando ho scritto troppo, quando un dialogo non è così come frizzante o così quotidiano come deve essere, eccetera. Quindi lo stile matura pian piano, e devo dire, comunque ribadisco, la lettura è una componente fondamentale, cioè arricchisce il vocabolario, ti apre nuovi spazi, ti fa capire come si possono raccontare certe cose. Cioè la lettura è l'elemento irrinunciabile per uno che vuole scrivere, a mio giudizio. Il fatto, ecco, quella cosa lì a proposito di stile, il fatto di collegare capitoli diversi magari con un giochetto di parole, questa è una cosa che è maturata col tempo. A un certo punto mi sono reso conto che mi divertiva, e quindi è diventato un giochetto che tendo a ripetere appena posso. Andrea, hai anticipato una mia curiosità, la lettura ad alta voce. Tu sei anche interprete di molti, di alcuni dei tuoi libri, sì. Degli audiolibri. Sì, sì, lo faccio un po' per, come dire, perché la piattaforma per cui registro pretenderebbe l'autore che legge il proprio libro. Però mi diverto anche perché, come dire, riesco, come dire, a interpretare le cose che ho scritto come le ho pensate, ed è bello poterle dire ad alta voce, è come se dicessi al lettore: questa roba qui va gridata, anche ovvio una parola scritta, si può dire gridò, ma tu leggi gridò, non ripeti il grido, se invece glielo dici, ecco, glielo gridi, capisci che va gridata, e quindi è un impatto diverso dall'audiolibro. Anche se devo dire è un'esperienza sconcertante, perché io alla fine di ogni registrazione mi chiedo: ma cosa ho scritto? Ma veramente la ripetizione, perché poi ogni tanto fai degli errori, devi fermarti, devi cominciare da capo, eccetera, perdi il senso di quello che hai scritto, è sempre la sensazione è quella di dire: buono, si capisce una mazza di quello che hai scritto. Scusi, dica. Curiosità, ho letto alcuni libri che scrive, sono tutti su Bevano. Volevo sapere o sentire da lei i suoi concittadini, cosa dicono di suoi concittadini? Chiedono qualcosa, si lamentano per non essere stati citati o rappresentati? Oppure vengono a chiedere conto, se si riconoscono. No, sai una caratteristica che credo non sia unica, diciamo, dei berlanesi, ma sia abbastanza universale, è che riconoscono tutti gli altri. Ma veramente leggono quelli che leggono i miei libri a Bellano, naturalmente non tutti, ma quelli che leggono mi fermano e mi dicono: io ho capito che voglio parlare di quello là o di quella là, che è una cosa che mi fa cadere dal fico, perché non era, è fuori dalle mie intenzioni, eccetera, però frutta, perché poi mi dicono: guarda che però non è andata proprio così, è andata così, e continua, e mi incontra su un sacco di cose che diventano materiale, esatto, è tutto un archivio che si rigenera spontaneamente. Ultima domanda, se c'è qualcun altro, no. Ultima domanda, è nominato Babbo Natale. Sì. Tu hai già scritto qualcosa su Babbo Natale, hai scritto proprio per i ragazzi. Sì. E in più anche hai pubblicato dei libri con un tuo concittadino di nome Vitali, un artista, quindi libri che sono passati illustrati da Giancarlo Vitali. Sì. Sì, allora queste storie di Babbo Natale sono... Come fu che Babbo Natale sposò la Befana e poi è l'impossibile non c'è niente. L'impossibile non c'è niente, lo scrissi perché anni fa, dunque, mio figlio ha 22 anni, quando aveva 8 anni, il 23 dicembre di quell'anno, non fatemi fare i conti perché non ci riesco, una suora, ci sono minorenni, minorenni, piccoli, quanti anni, ragazzi? Come? Forse cose. Eh no. Qui abbiamo 12 anni. Va bene. Abbiamo una decennia di... Una decennia. No, io non voglio fare errori, talmente. No, non voglio rovinare l'idea. 12 anni. No, formato. Ecco, c'era, ci fu questa suora incauta, quantomeno, io poi l'ho definita altrimenti ma non lo dico in pubblico, il 23 dicembre disse a lui e a tutti i suoi compagni: Babbo Natale non esiste. Dico: cazzo, ma il 23, ma da diglielo il 28, fagli passare un altro Natale. Potete immaginare le lacrime, un disastro. E quindi vabbè, l'illusione. E allora lì mi venne di raccontare questa storia in cui ormai non più usati, tutti i personaggi di questa fenomenale mitologia venivano ricoverati in un ospizio, quindi c'è un re magico, che però trovano il modo di ritornare, diciamo, a essere eroi di questo periodo. Perché? Perché c'è un bambino che scrive a loro di aiutarlo a preservare un piccolo bosco che ha davanti a casa dove va a giocare, un bosco dove naturalmente il solito geometra vuole stendere cemento per fare garage e villette a schiera, ed ecco, però tutta questa compagnia potente si rimette diciamo in attività, e Babbo Natale convoca anche i 7 nani, che sono dei gran lavoratori naturalmente, e riesce a risolvere il problema. È una cosa che mi piace molto questa qui di respirare questa aria di, diciamo, favolistica, fiavesca proprio. D'altronde, se non è così, io forse ho passato troppi anni a non considerare questi momenti come momenti veramente topici della vita, e adesso sto recuperando. È uno scrittore che si diverte a scrivere, e lo si percepisce. Una signora? Posso dire un'altra cosa? Sì, eccoli. Io so che a Milano la sera del 5 gennaio c'è una festa fotosferica, sarebbe piacevole avere qualche cosa che parla di questi. Pianoforte e Vendesi. Pianoforte e Vendesi. Anche audiolibro. Esatto, c'è anche audiolibro. È un racconto lungo che parla proprio di quel momento lì, di quella notte magica per me. Grazie. E ricordo l'appuntamento di sabato con Januaria Piromallo, che ci presenta I pareti inutili, il prossimo appunto qui in collaborazione con la biblioteca Claudia Augusta di Roberto da Punt, Sincope. Vi ringrazio, vi ricordo che Andrea Vitali è ancora a disposizione per chiamare le copie che sono in vendita con la collaborazione della libreria Ori. Grazie, buona serata. Grazie a te.